Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Ci occuperemo della Spagna, oggi, ieri abbiamo affrontato la Grecia, le borse oggi sono tranquille dopo il buon rialzo di ieri, meno 0,27% Milano, meno 0,60% Parigi, meno 0,28% Francoforte, meno 0,20% Londra, l'America perde lo 0,32%, ma al di là di Telecom Italia che perde il 2,40, Mediaset un punto e mezzo di calo, Monte dei Paschi meno 1,40 anch'esso e Steam Microelectronics meno 1,30, devo dire che ci sono anche molti titoli positivi: Finmeccanica più 3,14, Mediolanum più 2,90, A2A più 2,70, Lottomatica più 1,80, Exor più 1,60, Fiat più 1,40, Tenaris più 1%. Quindi temi classici del programma: mercati, situazione europea e però anche temi di attualità che non avremmo voluto far entrare in questo programma, ma ci sono entrati a pie pari nelle ultime settimane. In realtà è mesi che noi ci occupiamo degli sprechi, non solo sprechi per essere buoni, in molti casi si tratta di malversazioni e di furti, di reati, però chiamiamoli sprechi per essere buoni, sprechi delle regioni italiane, delle province, dei comuni. È almeno un anno che con la rubrica "Ma cos'è questa crisi?" raccontiamo come male vengono spesi i soldi pubblici delle volte, anche a livello centrale, ma anche a livello periferico locale. È chiaro che l'accelerazione di queste ultime 3 settimane con la vicenda della Regione Lazio, ma anche le perquisizioni della Guardia di Finanza di nuove Regione Emilia-Romagna, oggi in Lombardia Penati che non vuole dimettersi, e anche di questo parleremo, perché dice insomma: rifiuto l'impianto accusatorio. Caro Penati, negli altri paesi europei, e a maggior ragione lei che fa parte di un partito che ha sempre fatto del rispetto della legalità un cavallo di battaglia, negli altri paesi europei prima ci si dimette, poi si affronta giudizio e via così. Non è che uno dice no finché non verrà io non condivido l'impianto accusatorio. E quando mai si è visto un accusato condividere in pieno l'impianto accusatorio? Anche perché l'inchiesta è partita ben nel gennaio 2011, si è arrivati anche l'inchiesta Sesto San Giovanni, è arrivata anche all'ex presidente della Banca Popolare di Milano Massimo Ponzellini. Insomma, poi la racconteremo, mi sembra che gli elementi ci siano. Detto ciò, al di là del fatto che è legittimo che Penati possa anche dire che non si riconosce in quell'impianto accusatorio, intanto uno si dimette e poi si difende, giustamente. A maggior ragione se si pensa di essere quelli che danno lezioni come partito. E ci occuperemo di altri casi, perché oggi ho una serie di notizie sulle missioni all'estero delle regioni italiane che veramente l'appello è sempre il solito: usate il Malox o un farmaco equivalente. Nella seconda ora del programma però cercheremo di capire, con un'analisi a cavallo tra l'economia e la politica, perché è chiaro che questi sono sprechi, furti, reati commessi in un periodo che sono sempre reati, sono sempre sprechi, ma vengono commessi in un periodo in cui il resto del paese sta tirando la cinghia, i consumi sono al livello più basso dal 1946, come calo anno su anno. Si è chiesto ai lavoratori di innalzare l'età pensionabile, ci sono gli esodati, si è chiesto un sacrificio al paese, si sono aumentate le tasse ed è ancora più inaccettabile. Ci è venuto in mente che una cosa simile capitò nel 92. E allora c'è qualcuno che ha detto: beh, Mario Chiesa sta a Tangentopoli come Franco Fiorito, Air Batman, sta a questo ciclone. Di questo parleremo alle 18:10. È infatti innegabile che Tangentopoli nacque da una crisi economica in cui si trova l'Italia, nacque durante una crisi economica in cui si trova l'Italia. La lira era stata espulsa dallo SME, dalla banda di oscillazione, c'era una difficoltà di tenuta dei conti pubblici. Beh, mutatis mutandis, ci sono alcuni parallelismi. Siamo sotto pressione con lo spread e con quello che è l'andamento dei mercati internazionali verso l'Italia. Ci sono elezioni in corso, ci sono dei partiti che più che citare Zygmunt Bauman, società liquida, più che partiti liquidi, qui sono partiti in liquefazione, soprattutto uno. E c'è una difficoltà dell'elettorato nell'orientare le sue decisioni. Il tutto con sullo sfondo una variabile, la principale, che è la variabile della credibilità in tema di politiche economiche che il nostro paese potrà vantare e vanta, ammesso che l'avanti, nei confronti dell'Europa. E quindi nella seconda ora del programma ci occuperemo proprio degli eventuali parallelismi tra quello che capitò nel 92 con la fine della Prima Repubblica e quello che potrebbe capitare adesso, visto che a aprile si andrà a votare e invece che rasserenarsi la situazione si sta obiettivamente complicando sia sul fronte della legge elettorale sia sul fronte della legge anticorruzione. Indecente che il Parlamento non riesca a fare passare una legge anticorruzione che ci chiede l'Europa, sapendo che la corruzione assieme alla burocrazia e all'incertezza del diritto sono le tre voci per cui gli investimenti esteri scappano o tendono a non arrivare in Italia. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, sul fronte materie prime siamo tranquilli, si fa per dire: oro a 1781 dollari l'oncia, petrolio a 92,71 dollari il barile. Per quello che riguarda il fronte finanziario, in America finalmente c'è qualche giudice anche a New York. Il procuratore generale di New York, Eric Schneiderman, ha avviato un'azione legale nei confronti di JP Morgan, accusandola di aver commesso atti fraudolenti e ingannevoli nella vendita di titoli e obbligazioni legati ai mutui. L'azione legale è legata anche a Bear Stearns, la prima banca d'affari a fallire prima di Lehman Brothers e prima dell'acquisizione da parte di JP Morgan. Le vendite di Chrysler in America vanno bene, a differenza di quelle di Fiat in Italia e in Europa, più 12%, il miglior settembre dal 2007. È il 30° mese consecutivo che Chrysler aumenta le vendite negli Stati Uniti, e bene anche in Canada, più 2%, in Messico più 10%, boom, devo dire, dei marchi Fiat e Alfa Romeo, più 128%, e anche la Fiat 500 ha fatto un più 106%. Cala invece il mercato in Germania. Ieri abbiamo raccontato il dato italiano, meno 11% le immatricolazioni in Germania, nei primi 9 mesi il calo dell'1,8%, però secondo la stima dell'istituto tedesco DIV, quest'anno il PIL tedesco farà più 0,9% e l'anno prossimo più 1,6%. Più 0,9% è una crescita modesta, lo dico senza assolutamente godere per i problemi degli altri, abbiamo già i nostri, però più 0,9 non è una crescita della locomotiva. Sotto l'1% di solito parla di stagnazione. Di Spagna parleremo, smentiti gli aiuti, la richiesta di aiuti nel weekend, ma ci occuperemo del tema. Sì, hanno arrestato Batman. Sì, parleremo dell'arresto di Fiorito, ma interessa poco questo programma l'arresto di Fiorito. Interessa di più capire che cosa sta capitando, che marea o slavina sta montando, perché, ripeto, non è tanto il singolo caso della Regione Lazio, lì sta indagando la magistratura, ma adesso vi leggerò alcune cose che, anche se non c'è reato, io voglio essere molto chiaro su questo, un conto è quando si muove la Guardia di Finanza e la magistratura, ma nelle cose che spesso leggiamo non c'è un reato vero e proprio. Cioè, se la Regione Friuli Venezia Giulia lancia un bando per gli avvistatori di neve, non c'è reato. Se si cercano i maestri di sci di fondo per la Regione Sicilia, non c'è reato. C'è però un giudizio di carattere economico e politico sull'efficienza di queste misure, la produttività di queste regioni, l'utilizzo di questi soldi. Non serve sempre un reato per dare un giudizio di malgestione o di sprechi. Lo spreco non è un reato, è un reato morale, se volete, ma non in questo caso penale. Comunque, adesso abbiamo modo di raccontarvi l'intensa attività diplomatica delle nostre regioni, e un'attività diplomatica che permette poi all'Italia di presentarsi in ordine sparso, quindi di non pesare un benemerito niente, perché muove il racconto, sarebbe forse il caso di levare ogni tipo di rappresentanza internazionale alle regioni se non in casi limitatissimi. Io sarei per abolire tutte le missioni delle regioni all'estero, tanto non servono a una benemerita niente. Abbassare, putterecche più. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli. Super pensioni, putterecche più. Ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate. Evasori legalizzati, putterecche più. Auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu. Allora, partiamo prima di arrivare ai viaggi da altre chicche. La regione Lombardia ha speso 2.500 euro per appendere in aule agli ingressi 8 nuovi crocefissi. Però ne ha spesi 272, il budget complessivo di 2.500 euro per l'acquisto di crocefissi. Allora, ce ne sono già 8, uno nell'aula, 4 nelle sale delle commissioni, uno in quella in cui si riunisce l'ufficio di presidenza, 2 agli ingressi principali del palazzo. Va tutto bene, io non conosco la legge, non so se ci debbano o non ci debba essere crocifisso, massimo rispetto per ogni religione. 2.500 euro proprio perché la religione cristiana è una religione che invita anche alla parsimonia, a distribuire, a occuparsi degli ultimi, bah, no, forse non è proprio un atto così cristiano. E poi il comune di Gallarate, un albero di Natale da 20.000 euro. È vero che c'è il tracollo della MSC del comune di Gallarate, che è riuscita a passare in 10 anni la società comunale che gestisce acqua, gas e rifiuti a Gallarate, la municipalizzata, è passata in 10 anni da 12 milioni di attivo a un rosso di 26 milioni. Si sono mangiati tutto. Come si fa a passare con una municipalizzata che gestisce acqua, gas e rifiuti da un più 12 milioni a un meno 26 milioni, con un saldo negativo chiaramente di 38 milioni di euro? Forse se si paga l'albero di Natale 20.000 euro ci si riesce, forse se si lasciano 47.000 euro al ristorante per spese di rappresentanza. Ma che cavolo di rappresentanza deve fare la MSC di Gallarate? Con chi deve rappresentarsi e lasciare 47.000 euro al ristorante? Che rappresentanza è? Gestisce il gas, la luce, l'acqua? Gestisce non rompere. Però ci sono anche 3 auto di grossa cilindrata per i dirigenti, la moltiplicazione di incarichi e poltrone, la costruzione di una piscina a Saltrio finanziata con soldi pubblici, 138.000 euro spesi per strenne natalizie per i dipendenti, e 200.000 euro per sponsorizzare la Fondazione Teatrale Cittadina, che ora è in liquidazione, a dimostrazione che i comuni, le province devono uscire, se continuano a gestire così, da tutte le municipalizzate, perché sono semplicemente gestione di potere, di poltrone, di favori e di prebende. L'acqua, il gas, l'elettricità non c'entrano una benemerita niente. L'appalto per le pulizie della sede, 400.000 euro, praticamente oggi il servizio viene garantito con soli 100.000 euro. E poi 38 milioni di euro bruciati in 10 anni in investimenti e spese che non hanno avuto risultati. Voi direte, ma quanti abitanti ha Gallarate? Ne ha 50.000. E tu hai speso con 50.000 abitanti la bellezza di 140.000 euro di strenne natalizie per i dipendenti e anche di 50.000 euro in ristoranti per spese di rappresentanza. Complimenti alla AMSC di Gallarate. Il sindaco non so di che colore sia, magari lo scopriamo, così i cittadini di Gallarate si ricordino e potrebbero ricordarsi per le prossime volte come hanno utilizzato i loro soldi il sindaco. Oggi non ce n'è per nessuno. La Regione Sicilia, e quando mai, l'Istituto Regionale di Incremento Ippico, Istituto Regionale di Incremento Ippico, paga 55.000 euro l'anno ciascuno ai suoi 40 palafrenieri. Oh, palafrenieri io me lo ricordavo dal Medioevo, da delle cose, dai libri di storia, ma in pratica sono gli stallieri. Oltre agli stallieri, la Sicilia ne ha prodotto uno famoso, lasciamo stare, era Mangano, no? 2 milioni di euro per mantenere 80 cavalli e relativi stallieri. 2 milioni di euro all'anno per mantenere 80 cavalli e relativi stallieri. Ma se avanti così, fra un po' se li mangiano i cavalli siciliani. 20 stallieri però hanno accusato limitazioni fisiche e psichiche. No, veramente qua non ce la posso fare. 20 stallieri negli ultimi anni hanno accusato limitazioni fisiche e psichiche che non li rendono più idonei al contatto con gli animali. Ora, ma la limitazione fisico-psichica di uno stalliere qual è? Che ha paura del cavallo? Boh. Così la direzione ha deciso di metterli in funzioni più tranquille, addetti alla portineria e al centralino. Non è cambiato l'assegno mensile, E con gli addetti hanno spostato anche i cavalli, perché dalla sede principale di Catania gli 80 puro sangue sono stati trasferiti in provincia, nel ranch di Scordia. E poi c'è un direttore generale che piglia, direttore dell'Istituto Regionale di Incremento Ippico, piglia 60.000 euro l'anno, e un consiglio di amministrazione, perché c'è bisogno anche di un consiglio di amministrazione, che costa 4.000 euro lordi al mese. Io dico, questa dei palafrenieri veramente diventa una delle chicche più belle, magari un giorno facciamo un libro. 40 palafrenieri, di cui 20 hanno però limitazioni fisiche, ma la limitazione fisica dello stalliere vorrei capire qual è, e psichiche, e quindi non lavorano più, ma vengono pagati 55.000 euro l'anno ciascuno, anche se non lavorano più. Adesso però io ho bisogno di una base della Maiella, nel nostro tango della Maiella. Poi arriviamo anche alla Corte dei Conti, perché oggi il presidente Giampaolino ha fatto tutta un'analisi sulla situazione economica, sul bilancio, sul deficit, era in audizione alla Camera. Si è dimenticato di spiegarci Giampaolino dove cavolo era lui in questi anni, visto che la Corte dei Conti, a parte qualche appello, annuncio, indagine, è sembrata completamente assente. Finché non si muoveva la magistratura, Giampaolino, lei dov'era? Poi ne parliamo. Adesso però, l'attività diplomatica, avete presente il Foreign Office, il ministero degli esteri britannico, è niente in confronto a quello che riescono a fare le nostre regioni nel tessere fondamentali e cruciali relazioni commerciali e diplomatiche con il mondo intero, che permettono poi all'Italia di fare un salto indietro. Allora io dico, nella vita è importante la gratitudine. Si può non ricambiare la visita che la delegazione dei governatori delle regioni indonesiane aveva fatto al Lazio? No. Ecco perché allora il vicepresidente del Consiglio del Lazio, Raffaele D'Ambrosio, a fine aprile si è assunto l'onere pesantissimo di andare a Giacarta. Ma ci mancherebbe, c'è anche Isabella Rauti, che è consigliere del PDL alla Regione Lazio, è andata in Libano per incontrare la giornalista Jocelyne Cuirei, esponente dei movimenti laici, e la parlamentare Setrida Gaghea, impegnata a combattere la violenza sulle donne. Tutto giusto, magari una telefonata, un telegramma, no, oppure a spese tue. E poi il direttore generale dell'assessorato al lavoro della regione Sardegna, Massimo Temussi, se lo ricordino questi sardi, partecipa con Fabio Meloni, addetto stampa dell'assessore alle migrazioni, immigrazione, e all'assessore migrazione e immigrazione Antonello Liori, a una visita incontro con i sardi residenti in Australia. Fondamentale anche questo. I sardi residenti in Australia ringraziano. Che poi sono residenti lì perché forse... Vabbè. E il consigliere regionale della Calabria, Alfonsino Grillo, parte per Montreal per un vertice fondamentale. Dopo Camp David, cosa poteva essere? Il vertice della federazione Calabro-Canadesi Est Canada. Calabro-Canadesi Est Canada. Ma quanti sono? Boh. Poi ci sono i Calabro-Canadesi Ovest Canada, Calabro-Canadesi Nord Canada, Calabro-Canadesi Sud Canada, Calabro-Canadesi Centro Canada. Orfeo Goracci, presidente del Consiglio regionale Umbro dell'Emigrazione, ma che... va a Toronto per incontrare gli immigrati umbri, ma tutti improvvisamente a incontrare gli immigrati in Canada. Vabbè. Però attenzione, la regione Calabria è veramente il Foreign Office, perché nel giugno 2011 la delegazione della regione Calabria va a, pensate, Ucraina, Kiev, Donetsk e Mariupol. A febbraio è in Brasile, a maggio è in Australia, a luglio è in Russia. Obiettivo, non sto scherzando, ma l'obiettivo è invadere il mondo di squisitezze agroalimentari canadesi. Invadere il mondo di squisitezze agroalimentari canadesi con i soldi nostri. Ma che siete dei rappresentanti? Guarda che tour de force: giugno Ucraina, febbraio Brasile, maggio Australia, luglio Russia, invadere il mondo di squisitezze agroalimentari calabresi. Vabbè. Ma anche Francesco Storace, quando governava la regione Lazio, non è che si facesse mancare molto, l'avrete letto forse oggi sui giornali. Il 5 ottobre 2004 annuncia che la regione Lazio andrà nello spazio in una missione congiunta che porterà in orbita la navicella Soyuz. Che genere di alimenti ha messo la regione Lazio? Beh, Vittori, che era il cosmonauta viterbese, e i suoi colleghi sperimenteranno in orbita i tipici cibi del Lazio, con il vassoio progettato per la dieta degli astronauti. Io come dico, uno fa l'astronauta lì senza gravità e gli fai mangiare ricotta, olive di Gaeta, tozzetti di Viterbo, miele di acacia, cacciottina di bufala, pecorino della Sabina, che poi tra l'altro sono anche problemi di digestione. Uno magari è nella vicenda spaziale con problemi di digestione, non è il massimo. Io non so cosa possa capitare in assenza di gravità se uno ha problemi, diciamo così, di flautolenza mangiando ricotta, olive di Gaeta, tozzetti di Viterbo, miele di acacia, cacciottina di bufala, pecorino della Sabina. È un fiaschetto di rosso, no? E poi la spedizione della Campania a New York per il Columbus Day, costo finale 680.000 euro, quello in cui c'era la moglie di Mastella. E poi hanno inaugurato la sede della regione Campania Manhattan, costo di affitto della sede della regione Campania Manhattan 1.140.000 euro l'anno. A Bruxelles poi ogni regione ha la sua ambasciata, sono in tutto il mondo, sono 178 le sedi delle regioni italiane nel mondo, no? E la regione Sicilia ha acquistato 3 anni fa una nuova sede a Bruxelles, ha pagato 2.6 milioni, 650 metri quadri. E la regione Veneto invece ha speso ancora di più, Zaia, 3.600.000 euro per una rappresentanza fondamentale. Ma pigliatevi un aereo, ma c'è EasyJet da Treviso, da Venezia, da Palermo, ma che serve questa sede di rappresentanza? Vabbè, io resto alibito sia per quello che riguarda il vassoio preparato per il povero Roberto Vittori che per i 40 palafrenieri, di cui 20 hanno avuto problemi psicologici col cavallo. Mo te li do io i problemi psicologici. E adesso però torniamo a occuparci anche del resto. La chiusura è sempre la solita. Quinto Potere e Vasco Rossi. Voglio che vi alziate proprio adesso e andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Di nuovo in diretta alle 17.38 minuti con Sebastiano Barisoni. Due precisazioni perché arrivano messaggi al 349-238-6666 e anche su Facebook, sulla pagina di Focus Economia. No, il cibo servito all'astronauta era chiaramente laziale, ho detto canadese, ma era il cibo era laziale. Attenzione, quello servito all'astronauta Roberto Vittori, che mi ha indotto a presupporre qualche problema di digestione. Tozzetti di Viterbo, ricotta, olive di Gaeta, miele di acacia, cacciottina di bufala e pecorino della Sabina, ammazzo. Però è la prima. L'altra cosa sugli stallieri, sui 40 palafrenieri che accudiscono gli 80 cavalli nella regione Sicilia, per un costo a bilancio di ogni anno, aspettate che lo ritrovo perché era molto bella, perché 60.000 euro l'anno il direttore generale, 2 milioni di euro per mantenere 80 cavalli e i relativi stallieri. Di questi 40 stallieri, 20 sono malati per problemi psichici e fisici, limitazioni fisiche e psichiche con i cavalli. Un ascoltatore ha detto: beh, sono ipocondriaci, non male, primo premio. Un altro ha detto: avranno la sindrome di Lady Chatterley, più sofisticato. e altri ancora dicono che sono stati cavalli a fare mobbing. E va bene, no, non va per nulla bene, ma noi andiamo avanti invece con il presidente della Corte dei Conti, a cui vorrei dedicare due o tre suggerimenti. Oggi lui è intervenuto comunque alla Camera, allora ascoltiamo alcune cose e parliamo anche del suo intervento sui conti pubblici e poi una piccolissima chiosa. 349-238-6666 per gli sms. No, ha molto ragione chi dice, adesso io prima ho riso perché non ce la faccio delle volte a leggere di queste castronerie, sprechi, ruberie da parvenu, da proprio da chi si mette i calzini bianchi, ma ha ragione chi dice il tutto nella peggiore crisi economico-finanziaria degli ultimi 45 anni, con tagli continui al welfare, con ospedali che riducono i posti letto e avete visto i dati, ne abbiamo parlato anche noi, la riduzione che c'è a livello nazionale degli insegnanti di sostegno perché mancano i soldi. Io vi manderei i genitori sotto casa. Oppure, come proponemmo qualche tempo fa, bene, invece che Fiorito mandarlo in galera, fategli fare servizio sociale che porti lui i bambini che hanno problemi di deambulazione, così dimagrisce anche un po', se li porta in giro e fa lui il lavoro di assistenza sociale. E vale per tutti gli altri, per tutti quelli che hanno fatto le missioni all'estero, non si capisce fare che cosa. Non ridate i soldi, ridateli con il lavoro. Tanto i soldi se li ridate, avete voglia, non ridammazza nessuno qua. Ridateli con il lavoro. Fate il servizio sociale, così tappiamo i buchi che abbiamo creato grazie anche ai vostri sprechi nell'assistenza agli anziani, ai bambini con problemi motori e via così. Sarò populista, non me ne frega nulla. Giampaolino, Corte dei Conti, c'è un rischio di cortocircuito tra rigore e crescita. Il presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, sentiamolo alla Camera. Con riferimento all'orizzonte temporale di riferimento del TEF, la Corte sottolineava il pericolo di un cortocircuito rigore-crescita, favorita dalla composizione delle manovre collettive delineate nel documento, per quasi il 70% affidate nel 2013 ad aumenti di imposte e tasse, con la pressione fiscale prevista oltre il 45% dell'intero triennio 2012-2014. Secondo calcoli meritoriamente esplicitati dal DEF, l'effetto recessivo attribuibile direttamente alle misure di riduzione del disavanzo avrebbe dissolto circa la metà dei 75 miliardi della correzione prevista per il 2013. E poi il Presidente della Corte dei Conti ha anche aggiunto che il pareggio di bilancio poggia su un equilibrio precario, perché c'è un aumento della tassazione e anche un drenaggio di risorse. Ha continuato spiegando che la spesa delle famiglie calerà del 4%, è già calata del 4% e la contrazione peggiorerà. Ha detto che l'austerity è una terapia costosa e in parte inefficace. L'austerità e il rigore in un singolo paese, quindi occorre un coordinamento europeo, lo ringraziamo. E c'è un risultato eccezionalmente negativo per il PIL. Di tutto ha parlato oggi Giampaolino, che non ci costa poco in quanto Presidente della Corte dei Conti. Di tutto ha parlato, tranne che dell'attualità, e cioè... Che ne pensa la Corte dei Conti di quello che stiamo scoprendo? Che ne pensa la Corte dei Conti dell'attività svolta fino adesso? Dov'era la Corte dei Conti? Ci può raccontare Giampaolino cosa ha fatto in questi anni? Io non lo metto in dubbio che l'abbia fatto, per esempio, un'indagine della Corte dei Conti riguardò il Batman, cioè Fiorito, quando era sindaco di Anagni, se non ricordo male. Però voglio dire, di fronte alla slavina che sta arrivando, il presidente della Corte dei Conti si mette a fare l'economista Mario Draghi, che poi non ha nemmeno l'accento, abbi pazienza. L'austerità è una terapia costosa, in parte inefficace, va bene. C'è un risultato eccezionalmente negativo per il PIL, va bene, ma ci vuole dire qualcosa anche sulla gestione delle risorse pubbliche, su come la Corte dei Conti ha intenzione di inasprire la sua attività, su come ha intenzione di essere ancora più precisa, ancora più puntigliosa? Vuole dirci qualcosa sull'attività della Corte dei Conti, oppure è il centro studi Confindustria quello che sta parlando? Anche perché guadagna giustamente 142.000 euro lordi l'anno, e l'attività della Corte dei Conti è di verificare come vengono spesi anche i soldi in questo paese, non di spiegarci la congiuntura internazionale e l'impatto che avranno le misure di austerity sul PIL. Ci arriviamo da soli, abbiamo anche altri economisti per questo. Bon, adesso basta, mercati e poi la Spagna. 349-238-6666 per i vostri sms. Scusatemi, ma quella della Corte dei Conti ce l'avevo qua da un po'. E mercati che oggi hanno chiuso leggermente negativi: meno 0,18% Milano, meno 0,60% Parigi, meno 0,30% Francoforte e meno 0,31% Londra. Borsa si va. La borsa come sempre con Radio Corriere sulle 24 ore. Un primo sguardo con Livia Zancaner. L'apertura, buonasera Livia innanzitutto. Buonasera. L'apertura era in calo, poi insomma sulla parità. Tensioni sulla Spagna, ne parleremo fra poco. E poi c'è l'attesa di quello che sarà il giudizio di Moody's, l'agenzia di rating, proprio sulla Spagna. Sì, infatti le borse hanno aperto con cautela questa mattina, poi hanno virato ma al rialzo soprattutto Milano, e alla fine hanno chiuso leggermente sotto la parità, fatta eccezione per Madrid che ha guadagnato quasi l'1%, penalizzate sempre dalle incertezze sulla richiesta di aiuti della Spagna all'Unione Monetaria e al Fondo Monetario Internazionale. Vi sono infatti ancora dei dubbi, nel senso che indiscrezioni questa mattina riferivano di una richiesta di salvataggio nel weekend, ipotesi poi smentita secondo un'agenzia spagnola proprio dal primo ministro di Madrid, mentre altre voci hanno riportato che la Germania sarebbe ancora dubbiosa sul salvataggio della Spagna, preferendo evitare ulteriori salvataggi prima del raggiungimento dell'accordo tra la Grecia e i creditori. Ricordiamo inoltre che i mercati stanno aspettando sempre sul giudizio di Moody's, che potrebbe declassare la Spagna a livello spazzatura, quindi tutte queste incertezze hanno pesato sui listini, che hanno vissuto sostanzialmente una giornata all'insegna del nervosismo e della volatilità. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Una precisazione a chi scrive su Facebook: no, noi non abbiamo mai detto che il presidente della Corte dei Conti non abbia ragione nel mettere in guardia sulle manovre del governo, sull'austerity che rischia di aumentare la recessione, sulla terapia costosa e in parte inefficace secondo la Corte dei Conti, visto che è tutto incentrato sul prelievo fiscale. Abbiamo solo detto che ci è sembrato strano, per essere buoni, che nell'audizione del presidente Luigi Giampaolino alla Camera non venisse mai toccato l'aspetto del spreco di risorse degli enti locali su cui la Corte dei Conti deve vigilare. È un intervento tutto macroeconomico, tutto sul decreto finanziario, ma c'è pochissimo, anzi c'è niente su quello a cui stiamo assistendo. Un silenzio un po' strano, un silenzio un po' rumoroso. Detto ciò, restiamo sul tema che continua a spaventare, no, ma a preoccupare sì, i mercati, ossia la Spagna. Che cosa farà il premier Rajoy? 349-238-6666 per i vostri sms. E poi arriveremo al parallelismo, se esiste, tra Mario Chiesa e Franco Fiorito. Però Luca Veronese, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera a tutti. Rajoy poco fa ha detto la richiesta di aiuti non è imminente, e poi Moody's ha fatto sapere che entro questo mese rivedrà il voto al debito spagnolo, che rischia una bocciatura a livello spazzatura.

sai, mal comune, mezzo gaudio, se si può dire così, ma in realtà mal comune è male e peggio ancora per tutti. L'altra cosa che tentano di fare, e questa è davvero solo una speranza dal nostro punto di vista, non vorrei dare degli incompetenti o degli improvvidi ai governanti spagnoli, ma davvero non la crisi ha travolto anche le loro intenzioni. E comunque l'altra linea è quella di sperare che davvero i mercati si calmino. Qualche segno, come dicono gli addetti ai lavori, rialzista l'abbiamo visto, però attenzione che poi bastano un nulla con queste tensioni, con queste sensibilità. Mi sembra che il tuo giudizio sulla capacità di manovra di Rajoy sia abbastanza impietoso, speriamo che si ravveda. Non dico che debba chiedere i soldi per forza, ma facci capire come intende portare la Spagna pesantemente compromessa nel suo sistema bancario per via della bolla immobiliare a un livello accettabile prima che Moody's gli dia il voto junk sul debito, e quello poi sarebbe, non dico un passo senza ritorno, ma diventerebbe tutto più difficile, Luca. Quello davvero sarebbe forse l'ultimo elemento per far davvero portare al tracollo la Spagna. E però non è detto che arrivi anche prima. Moody's adesso ha detto che aspetterà fino a fine ottobre. E si dice che Rajoy, per chiedere aiuto, aspetti almeno le elezioni regionali di Galizia e Paesi Baschi del 21 ottobre, forse addirittura vuole attendere la rogna che ormai si è creata in Catalogna con il voto del 25 novembre. Non è chiaro, di sicuro le pressioni politiche interne per Rajoy sono molto importanti e noi osservatori esterni a volte le sottovalutiamo. Le elezioni in Galizia possono essere niente per noi, che è gallego, possono essere davvero importanti, è casa sua e non può perdere la faccia. Certo. Sono cose che purtroppo in questo momento, dicevo, non hanno i tempi della finanza, non hanno i tempi dei mercati, ma giocano ancora un ruolo molto importante. Staremo a vedere, mi sembra che la situazione si stia obiettivamente complicando. Grazie a Luca Veronese. Adesso parliamo dell'analisi a cavallo tra economia e politica di quello che sta succedendo in Italia. Molti messaggi che dicono: ma si candidi, basta, cacciamoli. Io ho proposto semplicemente che i vari Fiorito, invece che stare in galera, dovessero essere condannati, venissero messi ai servizi sociali, così tutti i tagli che stanno facendo le regioni, le province e i comuni per i servizi sociali, a maggior ragione quando tu hai a che fare con bambini o anziani e disabili o non abili, i tagli sugli insegnanti di sostegno, no, io non auguro a nessun figlio di avere un insegnante di sostegno come Fiorito, però una carrozzina, si possono fare tante altre cose, si può spingere. C'è chi mi dice, al di là dei complimenti, perché non fa una lista anche lei come Giannino, come Oscar, così da servi passate anche voi direttamente a rubare denari pubblici. Vabbè. Sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, tre che più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, tre che più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. Allora, oggi abbiamo raccontato, per chi se lo fosse persa, altre chicche sulle missioni all'estero. Pensate che in tutto abbiamo 178 sedi all'estero delle regioni italiane, ma mai io non ho mai visto la sede della California in Italia, per esempio, o la sede del Kent o del Warwickshire in Italia. Noi sì, però. E le varie missioni della regione Calabria, un tour de force, a giugno in Ucraina, a febbraio in Brasile, a maggio in Australia, a luglio in Russia, sempre con l'obiettivo di invadere il mondo di squisitezze agroalimentari calabresi. Poi le missioni per incontrare i sardi che vivono in Australia, i calabresi che vivono in Canada, magari anche i canadesi che vivono in Australia, non lo so. Cose incredibili, i 40 stallieri della regione Sicilia che devono accudire 80 cavalli, uno stalliere per due cavalli. Ma vorrei essere un cavallo siciliano, di cui 20 però si sono dati malati per limitazioni fisiche e psichiche. C'era di tutto oggi, Gallarate, la regione Lombardia, 2500 euro per i crocefissi. I crocefissi si pagano di meno e piuttosto quei soldi li dai alla Caritas, alla San Vincenzo, a chi vuoi. Però a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, vorrei chiedere una cosa. Buonasera Guido. Buonasera a voi. Questa canzone, Rino Gaetano, Non te leghe più, ha 30 anni. Allora, nel 92, quindi non 30 anni fa, tutto iniziò con un mariuolo, così definito da Craxi, che si chiamava Mario Chiesa. Anche qui abbiamo visto, e c'era una situazione internazionale molto pesante, la lira era uscita dallo SME, l'economia arrancava, rischiavamo di non reggere più il peso del debito, insomma c'era una situazione pesante, non dico come quella di oggi, ma molto vicina. In quel momento lì, Mario Chiesa, altro che mariuolo, diventò una slavina e sappiamo tutti come è andata a finire. È possibile un parallelismo con Franco Fiorito, che oggi va in galera e... ma che sta aprendo il vaso di Pandora a continui sprechi? Oggi c'è la Guardia di Finanza che indaga sulla regione Emilia Romagna, sulle visite all'estero, su tutto, visto che il Consiglio Umbro ha tagliato i gruppi, le auto blu, una su tre l'ha levata, e va buono, la sola soppressione dei due gruppi farà risparmiare 250.000 euro. In Puglia approvata la riduzione a 50 consiglieri, tutti a correre ai tagli, Il presidente della provincia di Brindisi si è dimesso perché non condivide i tagli, invece, e ce ne faremo una ragione, ma c'è un parallelismo possibile o no? Secondo me sì, in parte sì, ovviamente anche in parte no. Il parallelismo c'è perché allora Mario Chiesa era un illustre sconosciuto, diciamo, al grande pubblico, ma da lì partì sostanzialmente l'inchiesta Mani Pulite che poi aprì di fatto un nuovo ciclo della politica italiana. Oggi Fiorito è un po' nelle condizioni del Mario Chiesa di allora, nel senso che non è un politico conosciuto a livello nazionale, ora sì, ma prima no, nonostante fosse il capogruppo del PDL alla regione Roma. E questo intervento della magistratura potrebbe in qualche modo, che tra l'altro poi ricordiamo che Fiorito ha determinato la crisi della giunta Polverini e andremo alle elezioni con ogni probabilità anticipate rispetto al voto di aprile delle elezioni generali politiche, andremo alle elezioni a Roma, che sarà un test quindi importantissimo da questo punto di vista. Nel 92 il muro di Berlino era appena crollato, quindi è un momento storico diverso, ora sono passati 20 anni, però allora si posero appunto le condizioni. Arrivò nel 93 poi il governo tecnico di Carlo Azeglio Ciampi, proprio sull'onda di questa crisi senza precedenti, allora, e anche oggi siamo siamo in una situazione simile, con una crisi economica senza precedenti, con la differenza che noi il governo tecnico lo abbiamo già ed è quello di Mario Monti. Però mi pare che da un punto di vista del panorama politico si possa dire che diciamo, questa fase assomiglia molto da vicino a quello che accadde allora, 20 anni fa esatti. Si può anche dire che purtroppo in molti casi questi 20 anni sono passati inutilmente, perché insomma gli sprechi e gli scandali che vediamo oggi e che pure sono stati raccontati da tanti anche nostri colleghi. Io ricordo dei libri intitolati Il Malloppo, Rapaci, La Nomenclatura, Lo Spreco, La Deriva, Il Termitaio, La Casta, eccetera. Insomma, ne abbiamo fatte di inchieste tutti, però insomma fino a oggi non era cambiato nulla. Ora si cominciano a vedere qualche taglio. Sì, qualche taglio, qualche corsa ai tagli. C'è un'obiezione che viene mossa spesso anche dagli ascoltatori, vorrei chiudere su questa, Guido, e cioè Mario Chiesa e gli altri rubavano per il partito, poi qualcosa gli restava attaccato. Però a parte i casi, ricordo Sergio Larini, l'architetto di Craxi, che si era fatto la piscina, a parte alcuni casi rari, vado a memoria, in quegli anni facevo cronista giudiziaria, quindi qualcosa mi ricordo, però... Sì. Cioè, lì c'era un meccanismo di finanziamento illecito ai partiti. Qua obiettivamente i 4.000 euro, le ostriche, lo champagne, i 30.000 euro di villaggio per l'amante o la donna che di Fiorito. Da questo punto, Da questo punto di vista, secondo me, è ancora peggio, perché nel 92-93 fu messo nel mirino giustamente il finanziamento pubblico dei partiti, e ricordo che noi andammo al referendum in cui gli italiani del 93 abrogarono il sistema del finanziamento pubblico. Però attenzione, arrivò subito dopo una leggina i cui effetti li abbiamo oggi, perché la leggina, quella su sostanzialmente i rimborsi del sistema dei rimborsi dei partiti, è quella che di fatto ha sostituito il finanziamento pubblico dei partiti abrogato dal referendum, e con gli scandali, con questo utilizzo che è stato fatto dei rimborsi dei partiti, siamo arrivati alla situazione di oggi, dove appunto i soldi non arrivano solo ai partiti, quindi per il funzionamento della macchina politica, ma si riversano nelle tasche dei singoli politici, e questo, in questo c'è una differenza col 92. Una differenza purtroppo in peggio. In una battuta, chi dice a Barisoni: lei sta facendo campagna per Grillo? A me, guarda, Grillo non mi interessa, non mi fa nemmeno impazzire, se voglio dire tutta, ma chi se ne frega. A me sembra, Guido, dimmi solo sì o no, che la miglior campagna la stiano facendo questi scandali. Io credo. Assolutamente, vale per Grillo, vale anche in parte per Renzi, voglio dire, è una situazione proprio una grande operazione di marketing, diciamo, involontario, per antipolitica. Involontario, ma insomma, non prendetevela con chi gli sprechi di denuncia. Grazie a Guido Gentili. Grazie a voi, buonasera. E adesso però, prima di chiudere, il nostro appello classico, quotidiano, andremo avanti finché continuiamo a avere notizie su questo. Quinto Voglio potere. Che vi alziate proprio adesso, e andiate alla finestra, e l'apriate, e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.